pane, burro e rock and roll. Direi che sono le 8, seconda ora. Pronti? Burro e rock and roll. Noi ci siamo, voi? La tua colazione roll. Andiamo dritti fino alle 9. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Il benvenuto agli amici e alle amiche che si mettono in contatto solo ora, puntata 162. Come al solito il classico delirio, pane, burro e rock and roll, il delirio approssimativo ma con stile, questo è il tormentone di quest'oggi. Buongiorno dall'Ariele. Freak, mi segnalano che fino a Mornasco in provincia di Como, così perché fosse interessato alla segnalazione. Mentre devo allora, fatti chiare amicizia lunga, già facciamo casini con tutti i contatti che abbiamo, manteniamo l'ordine, abbiamo dei sondaggi aperti, due nello specifico, uno è dare il nome alla band di Matte, 13 anni, chitarrista di Firenze, e la sua nuova band, che oggi tutto sommato non si è filato nessuno. Secondo, c'è il sondaggio per gli impiegati all'ascolto, voi che siete rock anche se non si vede. Fino all'altro giorno parlavamo delle vostre suonerie del cellulare aziendale, da oggi ci occupiamo del vostro desktop. Basta scrivere delle suonerie aziendali, se no vado in palla e la redazione non ci capisce più niente. No, sgrido, perché oggi tutti scrivono: no, mia suoneria aziendale è questa. Basta, avete perso il treno, da oggi ci occupiamo del desktop. Ok. Dopodiché ho una telefonata, se riusciamo a farla, che fa venire la carognetta a tutti, che fa sempre bene. Ogni tanto ve la togliamo, ogni tanto ve la mettiamo, mi sembra giusto. Perché siamo la metafora della vita. Ogni tanto diamo, ogni tanto prendiamo. Torniamo come abbiamo fatto ieri a iniziare la seconda ora di pane, burro e rock and roll con la grande musica. Ci facciamo consigliare, aiutare dal collega Mox Cristadoro, abile conduttore del mezzogiorno di Rock FM con la trasmissione Easy Rider. E gli abbiamo chiesto se ci dava una mano, così se ci consigliava qualche brano per iniziare bene la seconda ora di pane, burro e rock and roll. Gli chiedevo anche la gentilezza di così siringare all'interno della nostra trasmissione anche un po' di buona musica italiana. E allora perché non iniziare quest'oggi con un Battisti del 69? Che ne dite? Ottima annata, no? Questa è Se la mia pelle vuoi, il brano consegnato dal nostro Mox, il brano da sciacquarsi la bocca, no? 1969, annata di ferro. Se la mia pelle vuoi, è stato un piacere ospitare per la prima volta Pane, Burro, Rock and Roll, Lucio Battisti. Gli Who nella diretta di Pane, Burro, Rock and Roll. Inutile il tentativo di salutare tutti quelli che ci stanno contattando, come al solito in tanti, grazie, è un piacere leggere i vostri messaggi al 3351007777. Ma velocemente volevo sgridare Davide, che mi dice: Ariele, che Freddy lo sporco e accarezzi i colori, ho saputo che hai snobbato un messaggio che ti rendeva nota l'omonimia con la sirenetta, perché? Boh, lo diciamo un giorno sì, un giorno no. Mi sembrava un granché. Un saluto anche a quest'altro anonimo intravedo che fa lo spiritosetto. Sentite qui. Dimmi un po', ma lo studio dove trasmettete voi è simile a quello di Radio DJ che si vede su All Music? Ne dubito. È uno sgabuzzino per le scope? Fai poco lo spiritoso, sai? Perché non è uno. Abbiamo uno studio dignitosissimo, anche perché non era nostro. Forse per quello. Oh, è un bello studio quello di Rock FM. Chi l'ha visto lo sa. Passate qua a guardarlo, via Locatelli 1, 20124 Milano. Auguroni all'autista cinico, così un po' random. Rock FM mi fa sbudellare, il dottor Pusceddu scrive così. Basta segnalazioni del cellulare aziendale, siamo passati al desktop del vostro computer. Oh. Qualcuno chiede che fine ha fatto Claude, quello che aveva il provino per fare il cantante della cover band Iron Maiden. Allora, purtroppo ha cambiato turno di lavoro questa settimana, è per questo che non l'ho mandato in onda. Io so com'è andata, però volevo farlo dire a lui. Quindi attendete ancora un po' e poi vi faccio sapere. Mentre giriamo pagina, come dicono i programmi seri, occupiamoci di un problema fondamentale, il precariato e la vita da rockstar, Roberto Fricantoni e la possibilità di arrotondare lo stipendio grazie al suo animo poetico. Ci colleghiamo con la fermata della metropolitana. Un saluto a tutti, salve, so che siete molto impegnati, vi vedo correre qui ogni mattina in metropolitana. Io mi presento, se me lo consentite, Roberto Antoni, detto Fric Antoni, poeta, paroliere, fine dicitore. Il momento è difficile, sapete, di solarte è molto arduo vivere, pertanto vorrei chiedervi un piccolo aiuto. In cambio vi declamerò le liriche del mio poeta preferito, Fosco Maraini, Il Ballo. Vertegida e festuglia, o dulcibana, e sdrillera che sdrallero, sul fizio la musica ci zunfrega e ci sdrana, con trogide burriagico e rubizio. Scusi? Ah, sì, grazie signorina. No, no, spassati che devo scendere. Vai, sì. Ah, prego. I Can Stand It canta Mr. Slohan Clapton. 8 e 16 minuti primi. Avevo promesso di farvi salire la carognetta. Sì, oggi ci ha presa così con la redazione di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Perché non far salire la carognetta ai radioascoltatori? Come fare? Dando il benvenuto a un nuovo radioascoltatore, un nuovo amico. Speriamo non cada la linea perché non prometteva bene in fuori onda. Ciao Pasc. Ciao Riele, ciao Frick. Buona giornata. Anche allora, voi. Perché? Beh, prendiamola con calma. Sei di Milano? Sì. Ok. Hai un'aziendina tua? Sì, facciamo software. Una software house. È due giorni che cerca di spiegarmi cos'è una software house. Dillo ai radioascoltatori che sono più in gamba di me, lo capiscono. Facciamo programmi, software per aziende, soluzioni, facciamo intelligenza artificiale, di quello più grande. Intelligenza artificiale? Sì, siccome quella naturale non ce l'ha andata. Cioè, ma tipo fate i robot? No, facciamo modelli matematici in grado di comprendere che cosa c'è scritto all'interno di una frase. Che palle, era più bello un robot. Un po' sì. Magari ci proviamo. E quelli da casa diranno, a me che me ne frega. Io non so neanche usare il computer, peggio per lui, diranno. Però Pask, come molti di voi là fuori, ha la passione per il rock and roll, per la musica, e perché no, suona. Certo, cosa, chitarra, che strumento? Solista. La chitarra, solista. E i nostri amici da casa lo sanno quanto è difficile, sai, c'è il lavoro, c'è la fidanzata, famiglia. Quando trovi il tempo di andare a fare le prove con la band? Allora, siccome io e due miei amici che collaborano con me abbiamo questa grande passione che dobbiamo conciliare giustamente con tutti gli impegni del resto della vita, abbiamo deciso di costruirci una sala prove in ufficio, siccome avevamo un localino libero. Questi c'ha la sala prove in ufficio! Yes, ci siamo fatti la saletta prove, abbiamo preso un mixerino a 12 canali, un ripartitore di cuffie, la batteria elettronica, e quindi andiamo in cuffia, facciamo tutto il casino che vogliamo senza disturbare nessuno. E suoniamo praticamente tutte le pause pranzo. Ma guarda testi qua, in tre fate un super trio. Sì, stiamo cercando un basso, ma non lo troviamo da nessuna parte, ma prima o poi lo troveremo, siamo fiduciosi. Che cosa? Beh, se vuoi lanciare un appello, se c'è qualcuno a Milano che a pausa pranzo vuole andare a gemmare con Pask e i colleghi. Ah, sì, sì, sì. Che strumento vi manca? Il basso, soltanto il basso. Siamo due chitarre, batteria violenta, ma che soltanto il basso. E senti, in che zona siete di Milano? Siamo a Cormano, proprio al confine con Milano, a 100 metri dal confine con Milano. C'è un bassista lì a Cormano che vuole passare le pause pranzo da Pask, lo dica. Tra l'altro mi sembra ottima questa segnalazione, la possibilità di inventarsi all'alba del 2008, l'anno della svolta, una sala prova digitale, una sala prova virtuale. No, non dirmi che è caduta la linea, ma lo sapevo che cadeva la linea falsa. Va bene, allora ciao Pask, che sarà capace di fare intelligenze artificiali, ma c'ha un telefono che fa bizze. Dicevo, interessante la segnalazione di fare una sala prove digitale, no? Mixer digitale, ti senti tutto in cuffia, perché io sono ancora un po' alla vecchia, quando Mr. Pinguino si è costruito la sala prove con degli affari giganti che si mettono dietro ai frigoriferi per attutire i rumori. Molto più punk. Però devi sfasciare le stanze. Invece la sala prove digitale mi sembrava un'ottima idea. Gli è venuta un po' di carognetta sapere che lui può suonare in pausa pranzo? Dai, sì. Ve la togliamo subito. Con i Guns N' Roses, The One in a Million. Questa è PBR su Rock FM. some fucking disease. They talk so many goddamn ways, it's all Greek to me. Well, some say I'm lazy, and others say that's just me. Some say I'm crazy, I guess I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end, I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi, you're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Maybe someday we'll see you, ooh, before you make us cry. You know we tried to reach you, but you were much too high. Interessare là fuori e scoprire se sei o non sei un vero rocker? Ma io credo di sì, soprattutto se ascolti regolarmente Pane, Burro e Rock and Roll. Non dovesse interessare, gira pure la frequenza radiofonica per qualche minuto, perché qui adesso c'è il test attitudinale. Fermo lì, ferma lì. Non farlo. Ti seghiamo le ditine, non farlo. Anche i ditini volendo. Se azzecchi la risposta, accumuli 2 punti per la tua prossima patente da vero rocker. Quest'oggi... E non è uno scherzo, no, ci tengo ad interromperla, no, DJ Ariele, per dire che... Davvero esiste un'autentica patente per il vero rock. In molti lo sanno, in molti già ce l'hanno, in molti ce l'avranno. Occupiamoci della grande storia del rock. Quest'oggi parliamo di Led Zeppelin. Yeah. Sapreste ricordare perché Jimmy Page o i Bo un giorno all'altro decise: chiamerò la mia band Led Zeppelin? Ipotesi A: Jimmy Page è un forte appassionato di dirigibili. Il nome Led Zeppelin è infatti un tributo al famoso dirigibile tedesco schiantatosi nell'agosto del 1908 vicino a Stoccarda. Oppure, ipotesi B: Jimmy Page, da sempre appassionato di scienze dell'occulto, tributò il nome della sua formazione al conte Ferdinand von Zeppelin, celebre occultista inglese della fine del Settecento. Oppure, ipotesi C, leggenda vuole che quando Keith Moon, batterista degli U, seppe della dipartita dagli Yardbirds, band dove militava anche Jimmy Page degli Zeppelin, di Keith Relf e Jim McCartney, dichiarò: "Go down like Led Zeppelin", scritto Led Zeppelin. Yes, come piombo. Come piombo, esatto. Con un gioco di parole si potrebbe tradurre: cadranno a picco come un dirigibile di piombo di metallo, in sostanza. L'espressione piacque moltissimo a Jimmy Page, che la propose come nome della, di quella che sentiva come sua band. Perché Jimmy Page scelse le Zeppelin? A, B o C? Insomma, restate con noi, già lo sapete, la soluzione arriverà tra poco. La risposta giusta a poco dopo. Ah, Frigo, Frigo, ho deciso! Cosa, Rogna? Da oggi ci si rimette in forma, dai, si sollevano pesi, flessioni, corriamo come dei matti sulla ruota, diventeremo le cavie di Riace, ci pensi, belli come i bronzi, come il sole, e le topine, le caviette, impazziranno! Rogna, sei sicuro? Nulla potrà impedirmi di scolpire il mio corpo come una statua greca, l'ideale della bellezza perfetta. Guarda, a volte ci penso anch'io a fare un po' di ginnastica, ma sai cosa faccio? Cosa? Guarda, vieni qua, ti stendi, chiudi gli occhietti, ti rilassi, fai un bel respiro. Ok, adesso pensa, i pesi bisogna andare a prenderli di là, il routine è percorrere qua, ma poi sudiamo come maiali, bisogna fare la doccia, l'acqua è fredda. Beh, Frigo, mi hai convinto, dai, lasciami riposare. Ma non dovevamo fare ginnastica? Sì, effettivamente, però ti do ragione, in effetti basta stendersi un attimo e passa la voglia. Ci facciamo una canna? Sì, ma da sdraiati.